Ti ho fatto la denuncia, ti ho detto. E saranno cazzi tuoi! E capito, stronzo, tu non hai paura, però la paura te la faccio venire a te, brutto bastardo, coglione che non sei altro. Crepa, crepa, ma cosa denunci tu? Ma non vedi che io denuncio a te, a tutti chi si ricassa tu e poi mai, ma lui vai. Brutto handicappato, ma cosa denunci tu? Tu denunci a te Mattesi. Non hai capito, cosa denunci tu? Tu denunci. Ma che notte è nata, ti va a ricoverare. A San Camillo devo andare, non devo Giuseppe Serra, mi ha fatto la pulizia della canna fumaria. Vai, vai, porcaccione, maleducato. Lo vedi che sei maleducato, porcaccione. Ma perché non schiacci il baracchino, non parli più? Fattene la vergogna. Ma perché non ti schiacci tu, a me non mi rompi più il coglione? Pronto, che tu sicuramente per rompere il coglione, che tu il tuo neo Kawasaki. Pronto! Rompendo le scatole al baracchino, dicendo parolacce e mettendo la portante, sparisci, pederasta. Io la portante te la metto, però ti coglioni! Però ti coglioni! Hai capito che io sono bravo? Se tu non hai paura, io ti faccio una bella denuncia come ho fatto a Torino, hai visto che sono andato a casa sua e vi piace bene. Tu a Ponte Sant'Antonio, coglione! E a me mi metti la faccia dietro quando fa la denuncia, perché te ne faccio subito una io. E non sai quanti motivi ci sono per non farti parlare a te. Uno, il primo, che è molto importante, perché sì un pederasta. Il secondo, perché sei malato. Il terzo, perché sei un maleducato. Il quarto, perché non c'è la concessione. Il quinto, perché c'è un baracchino rubato. E poi ti dico una cosa anche, abbassami le voci, che a me non mi fai paura, capito? Perché tanto non ti vedo, se ti avessi visto allora mi avresti fatto paura di quando sei brutto. Adesso sparisci, che fai schifo. Ma guarda, bello, per la concessione, sono cazzi miei, hai capito, stronzo? Che adesso che ti ha per mi crepa il culo, poi tua moglie ti va a trovare al cimitero. Brutto bagassone! Bagassone! Bagassone! Prosciu! Paraculo! Me la vai a vedere che nessuno risponde a me, perché ho un piccoglione! Tu e Marco! Stronzo! Capelli, mi stronzo, sparisci che fai schifo. Ma perché non spegni quel baracchino rubato che c'hai? Coglione, che tu vai a rubare? Stronzo, sei registrato quel figlio di puttana di Vittorio Giovani? Stronzo, guarda che io sono disegnato, adesso di te fare Vittorio Giove, hai capito, stronzo? Tu l'hai rubato quel baracchino, tu l'hai rubato quel baracchino, e già lo sai, e già lo sai, e hai rubato anche l'antenna, sparisci. Ma vai, vai, e pensa a pagarsi i tuoi oli, e vai, stronzo, e mettetela in culo, e divertiti su... Perché dai il tuo numero, bagassone, che tua moglie fa la puttana! Ma vatti adesso dove il mio numero di telefono, telefonatemi a questo numero, 234081. Quello è il mio numero, bagassone, figlio di puttana, coglione! Adesso do il mio, allora se quello lì era il tuo, 234081, avanti.